Allora, intanto buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. È inutile che io vi dica quanto sono onorato di essere stato scelto come coordinatore scientifico di questo corso di Digital Humanities per la comunicazione in rete, anche perché non è che questa scelta venga da un'istituzione qualsiasi, ma da Cinecittà S.P.A., come ci ha detto il direttore Bufalini, bisogna stare attenti a usare i nomi delle giuste ragioni sociali, e in particolare dall'Istituto Luce, che per me sono forse l'unica storia di internet che posso dire funzionante al 100% negli ultimi 100 anni in Italia, negli ultimi, scusate, 20 anni in Italia. Perché lo dico? Perché questi 20 anni, diciamo, di vita rilevante per le persone di internet sono stati una sequenza di fallimenti, figuracce, errori, inadeguatezze, quasi tutte collegate al mondo e alla cultura dalla quale provenivamo. Quindi si è arrivati a tentoni, mentre ecco quello che ha fatto l'Istituto Luce 20 anni fa, cioè decidere di rendere, non solo di digitalizzare, e ora sappiamo anche metadatizzare al 100% in modo da rendere poi ogni pezzo dell'archivio perfettamente interoperabile con chi sarà disposto a fare la stessa scelta, perché non si può fare da soli, evidentemente. Non solo rendere, appunto, digitalizzare e metadatizzare, ma anche rendere accessibile a tutti questo patrimonio su una rete aperta, mentre nel frattempo la rete è diventata una specie di televisione un po' più sofisticata, di mondi che non si parlano tra di loro, con giardini murati, opacità, algoritmi, intermediazioni che non sono affidate a grandi operatori culturali come le persone che avete sentito poco fa, ma sono affidate a macchine che non hanno un obiettivo di promozione del patrimonio culturale, ma hanno l'obiettivo di farvi fare click, di farvi condividere inconsapevolmente i vostri dati. Ecco, una scelta così coraggiosa come quella dell'Istituto Luce, che rimane oggi, è qualcosa di straordinariamente prezioso e per me straordinariamente, come si dice, fonte di ispirazione. E questo corso seguirà questa, che è una scelta molto precisa, che è quella che non considera ideologicamente la massima accessibilità, la digitalizzazione massiva, come diceva prima Sila, come un valore assoluto, ma come un estremo di uno spettro che dall'altra parte ha una scarsità. La scarsità che va benissimo se appunto finalizzata alla valorizzazione e non solo alla monetizzazione, che è un di cui della valorizzazione di un patrimonio culturale, e non invece la scarsità del marketing, di chi deve far ricircolare i vostri dati per vendere bastoncini di pesce, la metto proprio in termini estremamente tristi, ma è questo il problema, che oggi la parte vincente delle scelte che vanno verso la scarsità premia il marketing, che è uno dei criteri di sopravvivenza dell'industria dei media, però quando noi parliamo di valorizzare il patrimonio culturale non siamo dentro l'industria dei media, paradossalmente, noi siamo al servizio di altre industrie. Potrei dire provocatoriamente che quando promuoviamo il patrimonio culturale, per esempio attraverso la comunicazione in rete degli audiovisivi, noi siamo al servizio anche di chi ti vende la pizza al taglio fuori dai musei vaticani. Cioè, è quella l'industria di riferimento. Poi, chiaramente, se la vediamo in termini più ampi e meno provocatori, siamo nel mondo dei servizi, siamo nel terziario, siamo nell'industria dell'accoglienza, siamo nell'industria del turismo, siamo negli obiettivi del PNRR, che non a caso finanzia questo corso gratuito. Allora, scusate la maleducazione di fare questo tippone senza esservi presentato prima. Siamo in due, ma ne vedete uno solo, l'altro apparirà nell'ora di pranzo. Io sono Antonio Pavolini e faccio due lavori, uno in un'azienda e uno da solo, come freelance, diciamo. In un'azienda, l'azienda è TIM, io mi occupo di alcune web e social properties istituzionali, quindi per intenderci non di ballerini e dei maneskin, ma mi intendo, io lavoro su i messaggi dei nostri interlocutori, diciamo così, business critical, come si dice in azienda, cioè quelli che se pensano che noi lavoriamo bene fanno una grossa differenza per noi e viceversa, no? Okay. E questo è chi mi paga lo stipendio, quindi grande rispetto per questi signori che mi fanno arrivare la busta paga ogni mese. Poi c'è invece la parte da freelance, che dal punto di vista amministrativo è molto molto più doloroso, ma per me è molto importante. Io faccio il ricercatore dell'industria dei media. Qualcuno scherzando dice che io sono il ricercatore della parte tossica dei media. Mi sono fatto questa fama, purtroppo, perché io ho lavorato dentro team nelle strategie, scrivevo la parte dei piani industriali relativi a questa industria dei media, che per noi era così importante negli anni della convergenza. A un certo punto tutta la funzione è stata cancellata con un colpo di penna, queste sono le cose che succedono nelle grandi aziende, e ho pensato che fosse un peccato smettere di studiare, soprattutto smettere di essere pagati per studiare. E quindi ho cominciato a lavorare con centri di ricerca, anche internazionali, come il Fraunhofer Institute, con le università, adesso insegno alla NABA, teoria e metodo di mass media, ho scritto qualche libro, e alla fine, insomma, per ragioni che poi bisognerà chiarire con il direttore Bufalini, il direttore mi ha chiamato a fare il coordinatore scientifico di questo corso. L'altra persona, è molto più semplice dire perché è utile, io faccio sempre fatica a dirlo intanto a mia madre, che non capisce questi lavori, ha ragione. Invece è molto più facile spiegare perché Bruno Mastroianni è fondamentale per voi, perché lui, ve la dico proprio semplicemente, oltre che essere un filosofo, eccetera, esperto di retorica, è anche il social media strategy delle Pecherai. Quindi, chi meglio di lui può dirvi come si comunicano in rete i patrimoni culturali? E lui lo conoscerete nel pomeriggio. Qualche parola su questo corso. Io non volevo proiettare slide, tra l'altro Bruno mi ha giustamente insultato stamattina dicendo no, non puoi fare una cosa del genere, ridurre in slide il nostro corso, però dopo aver visto le slide bellissime che hanno fatto gli altri, tra l'altro ecco un'altra cosa vorrei dire, io vorrei iscrivermi agli altri corsi se potessi, quelli dello IULM non si può, cioè quello di Letizia per me sarà impossibile, ma magari mi inginocchierò e chiederò se ci ospita per qualcuna delle visite, ma non sarà semplice perché bisogna incastrare tutti i calendari. Quelli di Tor Vergata me li posso dimenticare, però questo per darvi un'idea, questi corsi sarebbero attraenti per me e viceversa, quindi, grazie Letizia. Questi corsi sono e devono essere straordinariamente attraenti per voi, perché qui dietro c'è una visione, cioè l'idea di formare dei profili professionali, arrotondarli, ok, dei profili professionali necessari per un paese, l'Italia, che questo lo possiamo dire abbastanza chiaramente dal punto di vista del patrimonio culturale non è il Gabon, cioè un paese un po' diverso, un po' particolare, e questo non perché se guardate sulla mappa dei siti UNESCO da noi ce ne sono 59 e in Cina ce ne sono 57, uno quindi si chiede ma come mai, voi siete miliardi, noi siamo 60 milioni, voi avete meno siti UNESCO di noi. Non è tanto questo il punto è tutto quello che l'UNESCO non ha ancora visto, che sono i nostri bauli, i nostri portafogli, come diceva Sila, cioè noi abbiamo una stratificazione di storie e di quindi significati universali, ma anche senso individuale, somma del senso individuale di tutto quello che rappresentiamo per il mondo, che sì, è quello il famoso petrolio, cioè il petrolio non è la cultura, è il patrimonio culturale, è ciò che noi, ciò che il mondo è disposto ad ascoltare in termini di storie, e chiaramente sta a queste professionalità la capacità di trasformare in storie questo straordinario patrimonio. E quindi, purtroppo vi devo far vedere le slide anche se non sono belle come quelle dei colleghi. Questo corso vorrebbe fornire gli strumenti cognitivi e anche una serie di esperienze laboratoriali. Non le raccontiamo qui le esperienze laboratoriali perché saranno un po' una sorpresa, necessarie per formare queste future figure professionali della comunicazione in rete, del patrimonio culturale. anche in sede di selezione, questo lo posso rivelare, credo, abbiamo fatto una scelta che ci permettesse poi di avere tre tipologie diverse di persone nel nostro corso. Persone che vengono già dalla comunicazione in rete e che però hanno magari già un piede nel mondo degli operatori culturali e della produzione di audiovisivi. Persone che vengono dal mondo della produzione media, e ci sono fior di documentaristi tra di voi, ce n'è una qui in seconda fila, che hanno bisogno di arrotondare il profilo con la comunicazione in rete e abituarsi a relazionarsi con il mondo degli operatori culturali. Poi ci sono persone che vengono da fondazioni, sovrintendenze, musei, eccetera, che vogliono perfezionare la parte di comunicazione in rete e di utilizzo degli audiovisivi. Quindi arrotondare le competenze. Abbiamo preso tre tipologie, più o meno in parti uguali, in modo da formare dei gruppi interdisciplinari che ci obblighino a indossare lo sguardo dell'altro, perché ogni vissuto professionale, io per primo ve lo dico, si porta dietro pregiudizi, legacy, limitazioni che dobbiamo scardinare. Io per esempio, che vengo dalla comunicazione, quando ho cominciato a fare ricercatore dell'industria, mi sono reso conto di quanto fosse limitante tutto il pregiudizio che avevo nel mondo verso la ricerca. E ho cercato di arrotondarmi. Queste sono figure nuove per il mercato del lavoro, perché se per esempio prendiamo i soli comunicatori in rete, alla fine magari sarete bravissimi a far fare click alle persone, a tirar fuori interazioni, commenti, quello che vogliono i vostri capi, aggiungo quello che i vostri capi sono disposti a capire, ma probabilmente invece il vostro lavoro deve essere far capire ai vostri capi qualcos'altro, specialmente quando promuoviamo il patrimonio culturale. È chiaro che con l'evoluzione delle tecnologie il rapporto con la memoria digitale, il rapporto con la memoria è completamente cambiato. Quello che credo ci sia nella fotografia a sinistra è il primo Ampex del 53, quello da un pollice. Vedo Alessia che fa sì, quindi evidentemente è così, perché se fa sì lei vuol dire che lo è. Mentre a destra abbiamo un tablet dove noi in un attimo accediamo al mondo oggi. E è molto bello perché tra l'altro su internet è possibile trovare la più antica videoregistrazione fatta con uno di questi Ampex, così come è più facile, è ancora possibile trovare degli screenshot delle immagini elettroniche di Hitler alla parata inaugurale delle Olimpiadi del 36. Non c'è chiaramente il kinescope, cioè la ripresa filmica del nastro di quell'epoca, perché il nastro non era stato inventato e nessuno si è messo a provare a riprendere le Olimpiadi del 36 in cinema. Ecco, però diciamo che internet ci permette oggi di avere questo spettro emotivo, di vedere per esempio un'immagine di Hitler scansionata in purtroppo 180 righe, perché era quello che era permesso ai tempi, e vi assicuro la potenza di vedere l'immagine dell'orrore scansionata in quel modo con la stessa tecnica elettronica che poi già negli anni 70 ci permetteva di esultare per Paolo Rossi, Pietro Mennea e Sara Simeoni, vi fa capire che tanto lontani quei tempi forse non potevano essere. Quindi già internet per meritoriamente, no, ti permette di operare questo confronto. Ma questo perché? Perché ci siamo già documentati prima, come diceva Sila, perché non è perché abbiamo giocato con un motore di ricerca, perché avevamo già un desiderio, avevamo già raccolto uno spunto. Ecco, questo è molto importante per renderci conto di tutte le issue e di tutte le opportunità della ricerca nell'epoca della transizione digitale. Quindi sì, opportunità, vado veloce perché non voglio togliere tempo anche alle domande. Alla fine ci saranno, spero, delle domande, non solo per me ma per tutti, no, tenetevele nel cassetto perché anche gli altri docenti dovranno rispondere. Lavoreremo sulle opportunità offerte da internet, sulle issue naturalmente, sulla dimensione critica, Sulla dimensione sociale, relazionale del contenuto, che è la vera grande frontiera per abilitare nuovi modelli economici nella circolazione in rete di questi materiali. Quindi la leva non è più evidentemente solo la fruizione del contenuto, ma è la condivisione. E poi sì, ci muoveremo lungo questo spettro, scarsità o condivisione, perché gli intermediatori culturali devono avere tutte le caratteristiche che avete sentito nelle presentazioni che abbiamo visto prima, ma soprattutto devono avere dei tratti distintivi verso quelli che sono oggi i concorrenti, cioè le macchine. E questo è il problema, che in questo momento l'intermediazione la fa un algoritmo, la fa un'intelligenza artificiale, che non va nel nostro interesse, va nell'interesse di chi le ha programmate per farci, per spendere le nostre eyeball, come dicono gli esperti di marketing, farci liberare più dati inconsapevolmente, rivendere questi dati agli inserzionisti, per esempio. Ecco, questo è un meccanismo profondamente tossico dell'industria in cui ci troviamo. E se vogliamo ragionare non più come industria, non solo come industria, ma come ecosistema, in modo da abilitare nuove economie, ok? Dobbiamo sfuggire da questo riflesso condizionato, un futuro in cui la scelta, la content curation, la content recommendation, l'intermediazione culturale è lasciata alle macchine. Non possiamo, per esempio, autoimporci tutta la scarsità e lasciare invece la totalità dell'accessibilità alle macchine, perché le macchine ci batteranno. Ok, quindi dobbiamo trovare nuovi modelli anche sull'accessibilità, intermediati da un pensiero umanistico, da chi, per esempio, esprime le digital humanities, cioè tutte le conoscenze all'intersezione, no, tra gli studi umanistici e l'evoluzione delle tecnologie. Allora, ci saranno due aree in questo corso, una parte teorica, diciamo, ma non frontale. Ecco, vi voglio dire fin da subito che ci sarà molta partecipazione anche nella parte teorica, perché se no, giustamente, come dice Letizia, ci lancerete gli ortaggi e fareste bene. La parte frontale, che affronterà, diciamo, il contesto in cui vi trovate a operare. Perché la prima domanda che dovremmo porci è: sì, comunicatori in rete del patrimonio culturale, ma così come adesso o così come vorremmo cambiare questo lavoro? Perché se è così come adesso, alla fine venderete il patrimonio culturale come si vendono i bastoncini di pesce, e questo non può funzionare. Cioè, non potete diventare macchine da click e provare a illudere qualcuno che sarete più bravi di un algoritmo nel fare questo. Questo lo farà sempre meglio un algoritmo. Se lo volete fare individualmente, dovete essere abbastanza autorevoli nel tempo da poter stringere un patto di fiducia con chi va su quella pagina, con chi si abbona a quel profilo internet. Un patto di fiducia per cui le persone sapranno che se vanno, per esempio, sull'account social dell'Istituto Luce, troveranno delle scelte umane, contestualizzate, delle scelte culturali e non delle scelte per farvi fare click da qualche parte. Ok? Parleremo anche di tutti gli aspetti tossici che sono proprio all'interno del sistema dell'informazione attraverso la transizione digitale, dove quasi tutte le scelte che sono state fatte per rallentare la transizione, sperando di poterla governare. Ma non mi pare che oggi l'industria dei media abbia un controllo migliore rispetto a 20 anni fa, nonostante questo costante lavorio di rallentamento. Tutte le problematiche legate alla fragilità della memoria digitale, perché effettivamente quello che abbiamo scoperto negli anni, che internet, che nasceva come un archivio che aveva la pretesa di essere, di resistere nel tempo, oggi è uno scheletro di buchi e di link rotti. No? La fragilità della memoria digitale nasce proprio dal fatto che istintivamente pensiamo che tutto sommato sta tutto su internet. Non è affatto così. Non è affatto così. Il ruolo dell'arte nello sviluppo dei nuovi trend della cultura digitale. Faremo degli approfondimenti anche su questo e saremo particolarmente sovversivi e maverick, poi vedremo anche grazie ad alcuni ospiti, e poi un'analisi anche della dimensione critica della rete, di tutti i problemi che questo nuovo universo al quale non siamo pronti individualmente, ma soprattutto come aziende, come industrie, come istituzioni, no? Cioè, tutti i problemi che ci troviamo ancora ad affrontare. Poi c'è la parte invece pratica, che sarà più approfonditamente svolta da Bruno Mastroianni, per raccontarvi, o meglio, per abilitarvi all'uso della cassetta degli attrezzi. Mi rendo conto che per molti di voi sarà un po' un ripasso, una ripetizione, però sono in realtà delle pratiche in continua evoluzione e Bruno è straordinariamente sul pezzo in questo, quindi avremo tutta una parte di strategie della comunicazione in rete, della diciamo così definizione dei profili di social media manager, ma anche di social media strategist, uno studio approfondito grazie anche a David Colangeli, che è uno degli ospiti, che avremo degli strumenti e delle app per la creazione di contenuti social, e poi tutta la parte dell'intermediazione digitale, la content curation, la content recommendation, la gestione delle community, delle conversazioni online. Insomma, diciamo che dopo i drammatici pipponi che vi bucherete con me, vi tranquillizzo subito, c'è anche tutta una parte molto molto più calata nella quotidianità del vostro lavoro. Antonio, vengo a fare l'uditore anch'io. Come, scusa Patrizia? Vengo a fare l'uditrice. L'uditrice dei pipponi, va bene, a una certa età si può anche si può anche affrontare questa tortura finale. Dunque, e poi qui faccio una piccola panoramica di quelle che sono le persone che verranno a fare delle, non so se chiamarle lectio magistralis, perché non sono, sì, alcuni insegnano anche, però non sono, sono più professionisti che accademici, e sono tutte persone che portano uno sguardo straordinariamente innovativo su questi temi. Da sinistra, Andrea Daniele Signorelli, che è un giornalista esperto di impatto soprattutto di intelligenze artificiali, NFT, blockchain su tutto il nostro mondo. L'ho chiamato perché su tante di queste aree io mi sento ancora indietro rispetto a quello che riesce a studiare lui giorno per giorno. Maria Elena Colombo, che è stata l'autrice forse del miglior libro in assoluto uscito negli ultimi 10 anni, Musei, sui temi delle digital humanities in Italia, e cioè musei e cultura digitale, un libro uscito per Carocci se non sbaglio. E poi, a proposito di sovversivi, Giorgio De Finis, non so quanti di voi conoscano questo personaggio, che è stato direttore artistico del Macro nella sua fase più folle, mi verrebbe da dire, il Macro Asilo dal 2018 al 2019, che ha trasformato quel luogo in una casa capace di ospitare, in un incontro continuo, rutilante, in una specie di macchina maieutica, come dice lui, di ospitare cittadini, artisti, intellettuali, una macchina che ci ha veramente riportato al Centre Pompidou del 77 dal punto di vista della capacità di farci rovesciare lo sguardo sull'arte, in particolare sull'arte contemporanea, creando un vero e proprio spazio pubblico fisico all'interno di un museo che prima era un luogo dove pagavi un biglietto per vedere una mostra che magari 2 mesi prima era alla Triennale di Milano, come se fosse un concerto di Bruce Springsteen. Quindi tu dicevi, vabbè, ma l'hai vista la mostra della Pixar? Ma l'ho vista un mese scorso alla Triennale, no? Praticamente era diventato un business immobiliare, il Macro, in quella fase. Adesso va molto meglio con Luca Lopinto, evidentemente, che ha raccolto l'eredità di De Finis, riportando in una logica curatoriale però l'accesso aperto, no? Che è nato come precedente ormai ineludibile nella gestione De Finis. Con lui parleremo del rapporto tra spazio pubblico fisico e spazio pubblico digitale, quindi anche di che cosa significa una property di un oggetto folle come è stato il Macro nel periodo 2018-2019. E altri 3 ospiti che avremo: Simone Aliprandi, che secondo me è la persona, allora, siccome nel corso di comunicazione in rete non c'è la parte dei diritti, cioè teoricamente dovreste fare entrambi i corsi, e con Simone cercheremo di fare un po' un'estrema sintesi del rapporto che c'è oggi tra contenuto audiovisivo e diritti digitali attraverso la transizione digitale. Okay. è molto importante perché, per esempio, l'ultimo libro che ha scritto Simone si intitola L'autore artificiale, che parla del problema dei diritti con l'apparizione di un soggetto che non si sa quanta creatività ci metta o quanta non ce ne metta. Stiamo ancora a discutere nei vari ordinamenti, quindi ecco, Simone sarà molto importante. Nicolette Mandarano, che è responsabile e curatrice dei media digitali collegati alle Gallerie Barberini Corsini qui a Roma, è autrice di un libro importantissimo come quello di Maria Elena, che è Musei e Media Digitali, l'altro era Musei e Cultura Digitale, e lei ci parlerà di che cosa significa cultura digitale come bene comune, ma anche cultura come asset da valorizzare ed eventualmente monetizzare, come una serie di case study. E infine, per la dimensione critica della rete, no, avete visto, c'era quest'ultima parte, avremo Daniele Chieffi. Daniele Chieffi che fa parte di quella categoria di tristi figuri come il sottoscritto che lavora nella comunicazione istituzionale di grandi aziende, ha lavorato per lungo tempo in Eni e si è occupato anche e soprattutto di comunicazione di crisi. Qualcuno di voi si ricorderà quello che è successo quando ci fu la puntata di Report dedicata a Leni. Ebbene, quello che riuscirono a fare Daniele Chieffi e il suo capo Marco Bardazzi in quell'occasione fu straordinario, cioè fu rispondere in tempo reale a tutto quello che venne mandato in onda da Report, spostando la conversazione sul piano che loro erano in grado di governare. Per la prima volta il broadcast si è ritrovato un po' nudo di fronte ai messaggi che arrivavano da più fonti e che rispondevano, cioè di solito il broadcast non è abituato ad avere una risposta. In questo caso ci fu quella storia e Daniele poi chiaramente adesso lavora in proprio, ha una sua agenzia di comunicazione anche di crisi e ci racconta tanti altri casi di crisi di comunicazione in rete, come sono stati risolti, e anche dei fallimenti fragorosi. Parleremo anche dei fallimenti perché forse si impara di più da quelli che dai successi. Prova finale non ne voglio parlare perché qualcuno ha fatto lo screenshot, no, perché quella è solo la parte teorica e ancora ci sto ragionando. Mi piacerebbe che ci fosse anche la prova finale pratica, e quello magari ne parleremo domani con Bruno, perché domani ci saremo tutti e due, sia io sia Bruno, allo IULM alle ore 9 puntuali, mi raccomando, grazie.